Sono un uomo onesto, sono forzista, mia moglie vota N, mio figlio è fascista, i miei muscoli sono le ruote della mia ammiraglia con la quale sfreccio tendenziale alla tua sinistra, se stai avanti ti lampeggio, la mia macchina ti morde, sono il tipo che sparisce quando scatta il verde, ti faccio rabbia ma io non mi sento meglio di te, perché quando puoi anche tu sei come me, il futuro di mio figlio non è causa di apprensione, ha già pronta la sua raccomandazione, è una vita giusta se non mancano persone disponibili a soccorrere un fratello massone, ho una mia precisa idea di libertà, ognuno deve poter fare quello che gli va, è solo il mio come potete constatare, l'unico stato sociale che interessa preservare. Sono centrista, sogno la ricchezza, qualche soldo in più non basta. Sono così fiero della mia vita borghese, non arrivo a fine mese ma continuo a fare spese. Guardo ogni giorno il telegiornale, so della situazione internazionale, di politica interna non capisco poi tanto, ma la borsa è in rialzo quindi sono contento. Le code in autostrada, le spese per le feste, i sondaggi che smascherano abitudini moleste, un calcio in mattina, una notizia strana vera, ma la mia passione è la cronaca nera. La televisione a volte mi imbarazza, tutti che sbattono la propria vita in piazza, ma godo di là di tutti questi risvolti se il mio programma ha vinto la gara degli ascolti. Passando qui ne era, nessuno baderà, se una legge infrangerà qualcuno, una tangente sorridendo pagherà, che tanto tutti sanno ma nessuno niente sa, e tutti stretti sul carretto ci si ammasserà. Va l'Italia verso un mondo globale, va tra Europa, mafia e corruzione, va il carretto verso un luogo comune che in quanto tale a ogni critica è immune, va in una classifica poco edificante, pecora nera del continente, va e dove va si fa sempre riconoscere, perché un po' cafona nelle viscere, va rassegnata a questa manfrina, si consola con il clima e la cucina, si lamenta e non ci pensa un momento a fare il primo passo verso il cambiamento, via dagli sprechi, gli abusi, i favori, via dal lupare e monsignori, via da una frase che un poco ci ammalia, certe cose succedono solo in Italia. L'Italia va sul carretto, va a due velocità, sul bando va con una canzone che l'accompagnerà finché qualcuno la fermerà. L'Italia va sul carretto, va a due velocità, sul bando va con una canzone che l'accompagnerà finché qualcuno la fermerà. L'Italia va sul carretto, va a due velocità, sul bando va con una canzone che l'accompagnerà finché qualcuno la fermerà. L'Italia va sul carretto, va a due velocità, salutando va con una canzone che l'accompagnerà finché qualcuno non la fermerà.